Il Terzo Anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Iaia Forte legge L'Isola di Arturo, di Elsa Morante. Introduzione di Arturo Cirillo. Buongiorno, io lo dico subito. Per me L'Isola di Arturo è il romanzo di tutta una vita. Non solo perché l'ho letto varie volte nella mia esistenza, ma anche perché io a questo libro devo il mio nome, poiché mio padre, per la grande ammirazione che aveva verso questa scrittrice e soprattutto anche verso questo romanzo, appunto scelse di chiamarmi Arturo. Voi tra poco sentirete dalla voce di Iaia Forte che all'inizio del romanzo Arturo in qualche modo si domanda l'origine del suo nome e dice, racconta, che gli hanno parlato di una stella, come anche gli hanno parlato di un famoso re, che però forse è leggendario e quindi magari a lui interessa anche meno perché non è forse mai esistito. Io credo anche che nella scelta del nome del suo eroe, nella Morante, ci fosse anche il pensiero di Arthur Rimbaud, che nella sua giovinezza ha scritto poesie e poi a un certo punto ha smesso di scriverle ed è scomparso. Il libro di Elsa Morante inizia con una poesia che si chiama Dedica, che voi non ascolterete, che si conclude con quattro versi, che io adesso vi leggo, che fanno così. E tu non saprai la legge che io come tanti imparo e che a me ha spezzato il cuore. Fuori del limbo non v'è Eliso. Quando la prima volta lessi il libro, avrò avuto 13-14 anni, tra l'altro proprio all'età di Arturo nel romanzo, l'ultimo verso di questa poesia, Fuori del limbo non v'è Eliso, mi apparve alquanto misterioso. I termini di limbo e Eliso io non li comprendevo molto, e in questo forse ero ancora anch'io nel limbo in cui Arturo, e in questo, come forse in pochissime altre cose, mi sono ritrovato simile a quel personaggio. Perché per me l'isola è essa stessa il limbo, ed è anche la stessa giovinezza. Insomma, per me questa isola non è soltanto un luogo, ma è anche un tempo della vita. Il tempo, direi, più felice è anche il primo, anche se a volte in quel tempo si vorrebbe invece diventare adulti e si vorrebbe che magari quel tempo invece passasse rapidamente, come succede allo stesso Arturo, forse anche perché in quel tempo, essendo nel limbo, non si sa che fuori non vi sarà alcun Eliso ad attenderci. Allora voi, cari ascoltatori, che sentirete questa lettura, dovete pensare che qui siamo in un luogo e quindi anche in un tempo in cui il reale e l'immaginario vanno ancora insieme, in cui l'epico è tra gli umani. L'eroe è un fanciullo che naviga su una barchetta che si chiama la Torpediniera delle Antille, con la sua cagna immacolatella, e tutto quello che lui in qualche modo cerca, di cui lui ha bisogno, compreso anche il mistero e l'ignoto, è nell'isola, che per lui è un mondo, e nel mare che circonda questa isola. A me mi ha sempre affascinato il rapporto di Elsa Morante con il suo personaggio Arturo, anche perché all'inizio proprio del romanzo, oltre alla dedica di cui parlavo prima, la poesia, vi è anche una brevissima citazione da una poesia invece di Umberto Saba, e la breve citazione, che è un verso, un solo verso, fa così: «Io, se in lui mi ricordo, ben mi pare», che a me ha sempre fatto pensare, forse anche così per deformazione professionale, all'arte del recitare, e voi sentirete che L'Isola di Arturo è un romanzo recitabile, perché è un romanzo narrato in prima persona da un ragazzo, e quello che voi vedrete, quello che voi ascolterete, è ciò che lui in qualche modo vede, ascolta, dice, il mondo è attraverso i suoi occhi. Dicevo all'inizio che questo libro è il libro di tutta la mia vita perché io varie volte l'ho riletto e uno degli anni in cui l'ho riletto è stato il 1989, quando morì mio padre. E io sentii il bisogno di ritornare nell'isola di Arturo. E Arturo, quell'Arturo che non sono io, mi disse varie cose, tra cui questa. Consideravo ogni soggiorno di mio padre sull'isola come una grazia straordinaria da parte di lui, una concessione particolare, della quale ero superbo. Ecco, io posso dire che le visite di un padre a suo figlio in un luogo e in un tempo fuori della storia, ma dentro al mito eterno dell'infanzia e della giovinezza, erano la mia fuga in quell'anno. Io non credo che L'isola di Arturo sia un libro per ragazzi, o almeno non credo che sia solo un libro per ragazzi, perché io lo sento anche come un libro sapienziale, dove le cose, anche le più semplici, possono nascondere dei misteri, degli altrove che noi non conosciamo. E poiché io mi immagino, ma forse sbaglio, che saranno soprattutto degli adulti gli ascoltatori di queste letture, li vorrei invitare però a prendere molto sul serio le avventure di Arturo, le sue sofferenze d'amore, le sue grandi gelosie, le sue fughe. Come vi inviterei, prendetelo, vi prego, come un consiglio, di non pensare a Nunziatella, la matrigna di Arturo, che apparirà ad un certo punto del romanzo come ad una semplice ingenua. Perché il motivo per cui credo che questo libro continui a dirmi ogni volta cose nuove sta proprio nella sua semplicità, che, si sa, è sempre un'apparenza, oltre che la cosa più difficile e preziosa. E detto questo, io mi fermo qui, vi dico ben arrivati sull'isola e vi auguro buon ascolto. Era stato il mio nome. Avevo presto imparato, fu lui, mi sembra, il primo ad informarmene, che Arturo è una stella, la luce più rapida e radiosa della figura di Boote nel cielo boreale, e che inoltre questo nome fu portato pure da un re dell'antichità, comandante a una schiera di fedeli, i quali erano tutti eroi, come il loro re stesso, e dal loro re trattati alla pari, come fratelli. Purtroppo, venni poi a sapere che questo celebre Arturo, re di Bretagna, non era storia certa, soltanto leggenda, e dunque lo lasciai da parte per altri re più storici. Secondo me le leggende erano cose puerili. Ma un altro motivo, tuttavia, bastava lo stesso a dare per me un valore araldico al nome Arturo, e cioè che a destinarmi questo nome, pur ignorandone, credo, i simboli titolati, era stata, così seppi, mia madre, la quale, in se stessa, non era altro che una femminella analfabeta, ma più che una sovrana per me. Di lei, in realtà, io ho sempre saputo poco, quasi niente, giacché essa è morta, all'età di nemmeno 18 anni, nel momento stesso che io, suo primogenito, nascevo. E la sola immagine sua che io abbia mai conosciuta è stata un suo ritratto su cartolina. Figurina stinta, mediocre, quasi larvale, ma adorazione fantastica di tutta la mia fanciullezza. Il povero fotografo ambulante, cui si deve quest'unica sua immagine, la ritratta ai primi mesi della sua gravidanza. Il suo corpo, pure fra le pieghe della veste ampia, lascia già riconoscere che è incinta, ed essa tiene le due manine intrecciate davanti, come per nascondersi in una posa di timidezza e di pudore. È molto seria, e nei suoi occhi neri non si legge soltanto la sottomissione, che è solita in quasi tutte le nostre ragazze sposette di paese, ma un'interrogazione stupefatta e lievemente spaurita, come se, fra le comuni illusioni della maternità, essa già sospettasse il suo destino di morte e di ignoranza eterna. Le isole del nostro arcipelago, laggiù sul mare napoletano, sono tutte belle. Le loro terre sono per gran parte di origine vulcanica, e specialmente in vicinanza degli antichi crateri vi nascono migliaia di fiori spontanei, di cui non rividi mai più simili sul continente. In primavera le colline si coprono di ginestre. Riconosci il loro odore selvatico e carezzevole appena ti avvicini ai nostri porti, viaggiando sul mare nel mese di giugno. Su, per le colline verso la campagna, la mia isola ha straducce solitarie, chiuse fra muri antichi, oltre i quali si stendono frutteti e vigneti che sembrano giardini imperiali. Ha varie spiagge dalla sabbia chiara e delicata e altre rive più piccole, coperte di ciottoli e conchiglie e nascoste fra grandi scogliere. Fra quelle rocce torreggianti, che sovrastano l'acqua, fanno il nido i gabbiani e le tortore selvatiche, di cui, specialmente al mattino presto, si odono le voci, ora lamentose, ora allegre. Là, nei giorni quieti, il mare è tenero e fresco, e si posa sulla riva come una rugiada. Ah, io non chiederei d'essere un gabbiano, né un delfino. Mi accontenterei d'essere uno scorfano, che è il pesce più brutto del mare, pur di ritrovarmi laggiù, a scherzare in quell'acqua. Nel nostro porto non attraccano quasi mai quelle imbarcazioni eleganti, da sporto o da crociera, che popolano sempre in gran numero gli altri porti dell'arcipelago. Vi vedrai delle chiatte o dei barconi mercantili, oltre alle barche da pesca degli isolani. Il piazzale del porto, in molte ore del giorno, appare quasi deserto. Sulla sinistra, presso la statua di Cristo Pescatore, una sola carrozzella da nolo aspetta l'arrivo del piroscafo di linea, che si ferma da noi pochi minuti e sbarca in tutto 3 o 4 passeggeri, per lo più gente dell'isola. Mai, neppure nella buona stagione, le nostre spiagge solitarie conoscono il chiasso dei bagnanti che, da Napoli e da tutte le città e da tutte le parti del mondo, vanno ad affollare le altre spiagge dei dintorni. E se per caso uno straniero scende a Procida, si meraviglia di non trovarvi quella vita promiscua e allegra, feste, conversazioni per le strade, canti, suoni di chitarre e mandolini per cui la regione di Napoli è conosciuta su tutta la terra. I procidani sono scontrosi, taciturni. Le porte sono tutte chiuse. Pochi si affacciano alle finestre. Ogni famiglia vive fra le sue quattro mura, senza mescolarsi alle altre famiglie. L'amicizia, da noi, non piace, e l'arrivo di un forestiero non desta curiosità, ma piuttosto diffidenza. Se esso fa delle domande, gli rispondono di malavoglia, perché la gente nella mia isola non ama ad essere spiata nella propria segretezza. Sono di razza piccola, bruni, con occhi neri allungati, come gli orientali, e si direbbero tutti parenti fra di loro, tanto si rassomigliano. Le donne, secondo l'usanza antica, vivono in clausura come le monache. Molte di loro portano ancora i capelli lunghi, attorcigliati, lo scialle sulla testa, le vesti lunghe e d'inverno gli zoccoli sulle grosse calze di cotone nero, mentre che d'estate certune vanno a piedi nudi. Quando passano a piedi nudi, rapide, senza rumore e schivando gli incontri, si direbbero delle gatte selvatiche o delle faine. Esse non scendono mai alle spiagge. Per le donne è peccato bagnarsi nel mare e perfino vedere altri che si bagnano è peccato. do rio vai levando aquela flor. O meu bem já está dormindo, zombando do meu amor, zombando do meu amor. Na barranceira do rio o ingá se debruçou, e a fruta que era madura a correnteza levou, a correnteza levou. Choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. Depois da chuva passada, céu azul se apresentou. Lá na beira da estrada, bem-vindo o meu amor, bem-vindo o meu amor, bem-vindo. Oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá, oh, Dandá. E choveu uma semana e eu não vi o meu amor. O barro ficou marcado aonde a boiada passou. A correnteza do rio vai levando aquela flor, e eu adormeci sorrindo, sonhando com nosso amor, pensando no nosso amor, zombando. Oh, Dandá, spesso nei libri le case delle antiche città feudali, raggruppate e sparse per la valle e sui fianchi della collina, tutte in vista del castello che le domina dalla vetta più alta, sono paragonate a un gregge intorno al pastore. Così anche a Procida le case, da quelle numerose fitte giù al porto a quelle più rade su per la collina, fino ai casali isolati della campagna, appaiono da lontano proprio simili a un gregge sparso ai piedi del castello. Questo si leva sulla collina più alta, la quale fra le altre collinette sembra una montagna, e allargato da costruzioni sovrapposte e aggiunte attraverso i secoli, acquistato la mole d'una cittadella gigantesca. Alle navi che passano a largo, soprattutto la notte, non appare di Procida che questa mole oscura, per cui la nostra isola sembra una fortezza in mezzo al mare. Da circa 200 anni il castello è adibito a penitenziario, uno dei più vasti, credo, di tutta la nazione. Per molta gente che vive lontano, il nome della mia isola significa il nome d'un carcere. Sul lato di ponente che guarda il mare, la mia casa è in vista del castello, ma a una distanza di parecchie centinaia di metri in linea d'aria, al di là di numerosi piccoli golfi da cui, la notte, si staccano le barche dei pescatori con le lampare accese. La lontananza non lascia distinguere le inferriate delle finestruole, né il viavai dei secondini intorno alle mura. Così che, soprattutto l'inverno, quando l'aria è brumosa e le nubi in cammino gli passano davanti, il penitenziario potrebbe sembrare un maniero abbandonato, come se ne trovano in tante città antiche. Una rovina fantastica, abitata solo dai serpi, dai gufi e dalle rondini. La mia casa sorge, unica costruzione, sull'alto di un monticello ripido, in mezzo a un terreno incolto e sparso di sassolini di lava. La facciata guarda verso il paese, e da questa parte il fianco del monticello è rafforzato da una vecchia muraglia fatta di pezzi di roccia. Qua abita la lucertola turchina, che non si può incontrare altrove, in nessun altro luogo del mondo. A destra, una scalinata di sassi e terra scende verso il piano carrozzabile. Dietro la casa si stende una larga spianata, giù dalla quale il terreno diventa scosceso e impervio, e attraverso una lunga frana si arriva a una spiaggetta in forma di triangolo, dalla sabbia nera. Non esiste nessun sentiero che porti a quella spiaggia, ma a piedi nudi è facile scendere a precipizio tra i sassi. Laggiù era attraccata una sola barca. Era la mia. Si chiamava Torpediniera delle Antille. La mia casa non dista molto da una piazzetta quasi cittadina e dalle fitte abitazioni del paese. Ma nella mia memoria è divenuta un luogo isolato, intorno a cui la solitudine fa uno spazio enorme. Essa è là, malefica e meravigliosa, come un ragno d'oro che ha tessuto la sua tela iridescente sopra tutta l'isola. È un palazzo di due piani, oltre alle cantine e al solaio. A Procida, le case di una ventina di stanze che a Napoli sembrerebbero piccole si chiamano palazzi. E come per gran parte dell'abitato di Procida, che è un paese molto antico, la sua costruzione rimonta ad almeno 3 secoli fa. Per oltre 2 secoli, dal giorno della sua costruzione, la casa era stata un convento di frati. Questo fatto è comune da noi e non ha niente di romanzesco. Procida fu sempre un paese di poveri pescatori e contadini, e i suoi rari palazzi erano tutti inevitabilmente o conventi, o chiese, o fortezze, o prigioni. In seguito, quei religiosi si trasferirono altrove e la casa cessò di far parte delle proprietà della chiesa. Per un certo tempo, durante e dopo le guerre del secolo scorso, essa ospitò delle compagnie di militari. Poi rimase abbandonata e disabitata abbastanza a lungo. E infine, circa mezzo secolo fa, venne acquistata da un privato, un ricco spedizioniere amalfitano di passaggio a Procida, il quale la adibì a propria abitazione e vi dimorò in ozio per 30 anni. Entrando, si aveva l'illusione di un passato di bisavole, di nonne, di antichi segreti femminili. Invece, dal tempo che erano state innalzate, fino all'anno che vi entrò la nostra famiglia, quelle mura non avevano veduto mai nessuna donna. quando poco più di 20 anni fa il mio nonno paterno, Antonio Gerace, che era un emigrante procidano, ritornò con un modesto patrimonio dall'America, l'Amalfitano, ormai vecchio, abitava ancora l'antico palazzo. In vecchiaia egli era diventato cieco e dicevano che questo fosse un castigo di Santa Lucia perché lui odiava le femmine. Le aveva sempre odiate, fino dalla sua gioventù, al punto che non voleva ricevere neppure le proprie sorelle carnali e lasciava fuori dalla porta le suore della Consolazione quando venivano a chiedere l'obolo. Per questo non si era sposato e non si faceva mai vedere in chiesa né per le botteghe dove le donne si incontrano più facilmente. Non era nemico della società. Anzi, di carattere assai splendido, dava spesso banchetti e perfino feste in maschera, in costume, e in tali occasioni si dimostrava generoso fino alla pazzia, così che era diventato una leggenda per l'isola. Però, ai suoi trattenimenti, non era ammessa nessuna donna. E le ragazze di Procida, invidiose dei loro fidanzati e fratelli che partecipavano a quelle serate misteriose, con dispetto soprannominarono la dimora dell'Amalfitano la Casa Re Guagliuna. Guagliuna, in dialetto napoletano, vuol dire ragazzino, giovincello. Mio nonno Antonio, sbarcando in patria dopo alcuni lustri di assenza, non pensava affatto che il destino riservasse la Casa dei Guaglioni alla sua famiglia. Si ricordava a malapena dell'Amalfitano, col quale non aveva mai avuto nessun rapporto di amicizia. E quel vecchio convento caserma fra gli spini e i fichi d'India non somigliava affatto alla dimora che aveva sognato per sé nell'esilio. Egli comperò una casetta di campagna con un podere nella parte sud dell'isola e andò ad abitarvi solo con i suoi coloni, essendo celibe e senza parenti prossimi. Veramente, sulla terra esisteva un parente prossimo di Antonio Gerace, che egli non aveva mai visto. Era un figlio, nato nei primi tempi della sua vita di emigrante, da una sua relazione con una maestrina tedesca, da lui presto abbandonata. Per vari anni dopo l'abbandono, finito un breve periodo di lavoro in Germania, l'emigrante si era trasferito in America, la ragazza madre aveva seguitato a scrivergli, supplicandolo di aiuti materiali perché si trovava senza impiego e cercando di commuoverlo con descrizioni meravigliose del bambino. Ma l'emigrante a quel tempo era lui stesso così miserabile che aveva smesso perfino di rispondere alle lettere, finché la giovane, scoraggiata, non gli aveva scritto più. E quando, ritornato a Procida invecchiato e senza eredi, Antonio fece ricerche di lei, seppe che era morta lasciando il figlio, ormai sui 16 anni, in Germania. Antonio Gerace allora chiamò a Procida questo figlio per dargli finalmente il proprio nome e la propria eredità. E così, colui che doveva più tardi essere mio padre, sbarcò sull'isola di Procida, vestito di stracci come uno zingaro, seppi più tardi. Doveva avere passato una vita dura, e il suo cuore infantile doveva essersi nutrito di rancore non solo contro il suo padre ignoto, ma anche contro tutti gli altri innocenti procidani. Forse anche costoro, con qualche loro atto o modo, offesero fin da principio e per sempre il suo orgoglio irritato. È certo che, nell'isola, il suo contegno indifferente e oltraggioso gli fruttò l'odio di tutti. Con suo padre, che cercava di accattivarselo, il ragazzo si mostrava scostante fino alla crudeltà. La sola persona che egli frequentò nell'isola fu l'Amalfitano. Da tempo costui non dava più trattenimenti né feste e viveva isolato nella sua cecità, scontroso e superbo, rifiutando di ricevere chi lo cercava e scostando col bastone chi lo avvicinava per la strada. La sua figura, alta alta e trista, era diventata odiosa a tutti quanti. La sua casa si riaprì per una sola persona, il figlio di Antonio Gerace, il quale si legò a lui di una tale amicizia che passava tutte le giornate in sua compagnia, come se lui, e non Antonio Gerace, fosse il suo vero padre. Da parte sua, l'Amalfitano gli votò un affetto esclusivo e tirannico. Pareva che non potesse più vivere un giorno senza di lui. Non molto tempo dopo, anche Antonio Gerace morì. E il figlio, che da qualche mese aveva sposato un'orfanella nativa di Massa, si trasferì nella casa dell'Amalfitano insieme con la sposina già incinta. Egli aveva allora circa 19 anni e la sposa meno di 18. Era la prima volta in quasi 3 secoli da che il vecchio palazzo era stato fabbricato che una donna abitava fra quelle mura. Iaia Forte ha letto L'isola di Arturo di Elsa Morante. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego, a cura di Fabiana Carubolante e Anna Antonelli, con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello, @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it.